Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna è stato finito. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! E buongiorno un cazzo a tutti quanti gli amici di Runtime Radio, benvenuti in questa edizione straordinaria del sabato, un'edizione assolutamente diversa dal solito, cioè ossia lo stesso programma solo che in un giorno diverso, in un orario diverso, perché giovedì non ero nelle condizioni psicofisiche per poter fare questo programma che arriva con questo episodio all'ultima di stagione. Poi durante le prossime settimane, nelle mattine, io e Michela ci inventeremo qualcosa, magari riuscirò a fare magari una trasmissione di quelle un po' più di intrattenimento, magari in compagnia di qualcuno, vediamo, poi insomma ci si organizza in qualche modo. È l'ultima di stagione perché devo dire la verità, non ho l'energia per fare un programma come questo, che richiede comunque un po' di energia, un po' di verve dal punto di vista proprio, c'è anche l'incazzatura. A volte quando succedono determinate cose ti rendi conto che non sei più neanche incazzato, e questo è il momento insomma invece quindi di fermarsi e di raccogliere energie per tornare in una nuova stagione con l'incazzatura giusta, quantomeno insomma con il piglio giusto, che è quello di dire buongiorno un cazzo a tutti con dei temi che probabilmente potrebbero anche variare un pochino, non è necessariamente bisogna essere forse arrabbiati per qualcosa, insomma è comunque un modo riottoso di rispondere alla vita. Però prima di questo, come sempre sapete che noi durante questo periodo facciamo la nostra esortazione all'inizio e alla fine delle nostre trasmissioni di dare una mano a Runtime Radio. Sapete insomma che ci sono stati dei periodi di grosso calo, di grande trasformazione pure dal punto di vista della struttura, insomma diciamo di quello che poi sono le infrastrutture che andiamo a utilizzare, però in particolare in questa fase dove, anche se certe cose si stanno sistemando tramite accordi grazie a Spreaker, insomma c'è un momento in cui andiamo incontro all'estate e alcuni costi dei servizi sono aumentati, quindi se qualcuno vuole bene a Runtime Radio, questo è il momento insomma che magari uno non ci ha pensato, oppure non è stato il momento giusto, oppure cioè, in quel momento c'hai da fare, oppure sì, ho già te l'ho date un po' di tempo fa, insomma se avete voglia di contribuire questo è il momento giusto, andate su www.runtimeradio.it e cliccate sul pulsante anche io, e lì c'è il modo in cui potete partecipare, insomma contribuire ai costi insomma in qualche maniera, anche se poi ci saranno delle novità, faremo partire insomma un'iniziativa in particolare verso settembre, quindi insomma vedrete che Runtime continuerà a trasformarsi. Soprattutto già siamo in lavorazione per una nuova stagione dove la radio diventerà ancora un po' più radio, e stiamo cercando poi di trovare delle iniziative per dare anche una collocazione, no, a questo network, in modo che abbia una costante, più costante programmazione in live, molto di più magari di quella che già c'è, ma non è detto che ci riusciremo, quindi cioè, diciamo togliendo sempre più spazio ai podcast mandati in differita, come diciamo noi, e dando poi spazio invece magari a più realtà, a più situazioni magari live che sono quelle che vi piacciono di più, perché c'è ovviamente l'opportunità dell'interazione, a parte questo periodo che è fisiologico, il fatto che comunque si va verso l'estate, anzi siamo già verso l'estate, preferite sicuramente la sera uscire e andarvi a divertire e bere della birra fresca e stare in compagnia piuttosto che stare dentro casa ad ascoltare l'Anthem Radio, ma cioè, dire, lo farei anch'io al posto vostro, quindi niente, non, nessun problema, giusto così e alla via così, come dico sempre. Un saluto agli amici di Runtime Radio da Pesaro. Sono Diego e vi ascolto sempre. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that it just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? Must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. E questo era Bob Dylan con Blowing in the Wind, che insomma ovviamente conoscete sicuramente, probabilmente l'ho anche già messa, ma anche sti cazzi, perché poi alla fine faccio come pare. Però detto questo, insomma, iniziamo, volevo dire, salutiamo Michela che se ne sta andando, quindi l'unico ascoltatore che c'avevo stamattina se ne va anche lei, giustamente, perché cioè, ci sono degli impegni, ed è il motivo per cui appunto le nostre trasmissioni poi vanno piano piano chiudendo. Tra l'altro dopo in coda rimanete, perché ci sono tanti piccoli finali di stagione che stiamo già preparando, che sono già pronti e calendarizzati, quindi se volete saperli rimanete. Allora, la domanda che vi faccio io questa mattina è se vi ricordate, ovviamente poi quando ascolterete insomma e vi risponderete fra voi e voi insomma, no? Perché è quella la cosa che sicuramente farete. Qual è praticamente la volta in cui avete sentito parlare per la prima volta dei curdi? Perché questa è una cosa importante, io me lo ricordo quando ho sentito parlare per la prima volta dei curdi, ed era la prima volta proprio in assoluto, perché non sapevo neanche che esistesse insomma né i curdi né come diciamo come etnia di minoranza, né comunque il Kurdistan e tutte queste cose qua di cui ovviamente andremo a parlare. E la prima volta che ho sentito parlare era alla guerra del Golfo, no? Quindi l'invasione dell'Iraq, che è stata una forse è stata la prima guerra riccamente e profondamente televisiva della storia dell'uomo, perché vi ricorderete insomma tutto l'impianto scenografico col quale gli americani sono sbarcati in Iraq, anche inutilmente, perché insomma alla fine quello era proprio tutto estremamente televisivo, no? Cioè, nel senso, no, c'erano tanti modi per poter far atterrare truppe, però insomma comunque piaceva questa cosa che veniva dal mare, vi ricordate le telecamere dappertutto. E dopo comunque nel passare del tempo, che poi questa è una di quelle cose che ti fa vedere quando il potere mette in moto determinati meccanismi, tu puoi ribellarti, rifiutarti, non essere d'accordo, avere dei dubbi, però non conta niente, no? Perché quello che conta è il fatto che questa è stata una guerra contro Saddam Hussein. Saddam Hussein, ricordiamoci, uomo fortemente sostenuto dal governo americano e con tutte le sue forze ovviamente addestrate dagli americani e dalla CIA, che improvvisamente era diventato il nemico per ragioni ovviamente politiche, perché c'è sempre ragioni politiche per questo tipo di discorso. Quando è stata fatta questa guerra, poi piano piano ci si è accorti che praticamente alla fine questa guerra tanto giustificata non era, no? Cioè sono usciti tutta una serie di documenti, tutta una serie di situazioni, tutta una serie di cose che ci hanno dimostrato in qualche maniera che alla fine non c'era bisogno di fare questa guerra, insomma, no? Perché non c'era bisogno? Perché alla fine si basava tutto su tutta una serie di documentazioni che in realtà le cose non erano così come dovevano essere e via dicendo. Però poi che è successo? È successo che ovviamente questa guerra poi è stata vinta, Saddam Hussein è stato processato, ve lo ricorderete, no? Saddam Hussein dentro la sala del tribunale, dentro l'area del tribunale completamente drogato, che non sapeva neanche dove si trovava, però insomma doveva stare lì per far vedere anche questo impianto scenico, scenografico per questo tipo di discorso. E quella è stata la prima volta in cui abbiamo sentito parlare dei curdi come minoranza etnica perseguitata, esterminata dagli iracheni, perché ovviamente in quel caso i nemici erano gli iracheni e quindi i cattivi, perché questo per farvi capire quanto la narrazione occidentale nei confronti dei popoli e delle situazioni e dei diritti alla fine cambia ogni volta in maniera plasmante, insomma così, in maniera incondizionata a secondo insomma di quelle che sono le situazioni che fanno più o meno comodo, no? E praticamente alla fine i curdi sono stati, cioè è stata raccontata questa storia dei curdi, no? Come minoranza appunto contesa fra quattro nazioni, la grande difficoltà insomma dal punto di vista della gestione, no? di questa situazione, loro cercavano di difendersi, quindi il fatto che poi alla fine si erano anche organizzati come milizia, perché giustamente non è che un popolo sta lì e dice che bello che qualcuno mi stermina, no? Cioè nel senso, certo, no, è giusto che ci stavano. E quella è stata la prima volta in cui noi abbiamo sentito parlare dei curdi, e questa narrazione nei confronti dei curdi ovviamente ci ha portato a empatizzare, a solidarizzare, no? con questa popolazione, che erano in quel caso le vittime, no? Di persecuzione, di genocidio, insomma ci eravamo resi conto per la prima volta, ma anche qui le cose poi cambiano sempre a seconda delle nostre necessità, che non c'erano solo gli ebrei, no? Essere stati perseguitati e sterminati, ma c'erano anche altri popoli. Da lì in poi è uscita fuori tutta un'altra serie di discorsi, perché c'era a un certo punto è uscito fuori pure il discorso della Turchia, no? Cioè nel senso la Turchia verso gli armeni, no? Ricordiamoci che oggi il nostro grande alleato turco, nostro membro dell'Unione Europea e grande e importante membro della NATO per ragioni strategiche, è comunque un paese genocida, è un paese che ha sterminato gli armeni, che ha combattuto i curdi, ritorniamo a dire, insomma si trovano tra ovviamente Turchia, Iran, Iraq e Siria, che è insomma una cosa abbastanza praticamente è una cosa abbastanza importante il modo in cui è collocato ovviamente il Kurdistan, perché essendo poi una nazione realmente indipendente, è praticamente un altopiano geopoliticamente piazzato all'interno di queste quattro realtà che si spartiscono ovviamente una regione che avrà sicuramente una sua importanza, oltre al fatto di dover chiaramente perseguitare e sterminare sta gente, insomma. Ecco, questa è stata la mia prima volta che io ho avuto a che fare quindi ho avuto modo di conoscere la popolazione dei curdi. Un racconto che mi ha fatto empatizzare con i curdi stessi, perché mi rendevo conto che c'era una persecuzione, mi rendevo conto che c'era ovviamente un'ingiustizia sociale nei confronti, ingiustizia sociale, etnica e politica nei confronti di una popolazione che cercava la sua autonomia. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. now in darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Questa è War Pigs, Black Sabbath, che ce la siamo sentita praticamente quasi tutta, quindi non mi si venga a dire, non mi si venga a dire che sono un deturpatore di canzoni, perché è vero che lo sono, però non mi si venga a dire, in questo caso non mi si venga assolutamente a dire, perché l'ho lasciata praticamente fino all'ultimo, cercando appunto di dare più spazio alla musica in questa puntata, proprio perché è un po' triste insomma la questione. E buongiorno anche a Deborah. Quindi, ricapitolando, abbiamo sentito parlare per la prima volta dei curdi nella guerra del Golfo, abbiamo sentito parlare dei curdi durante la guerra in Siria. Tra l'altro mi viene da ridere, perché ci sono determinate cose che oggi sono dimenticate, praticamente già dimenticate, successe ieri, o alcune sono addirittura in esecuzione, però noi che ci frega, insomma, in fondo l'importante è trasformare la narrazione dal punto di vista giornalistico e propagandistico a secondo delle situazioni, così come ci vengono, perché insomma è importante. Che poi ci sta il fatto che esista una propaganda, esista un, diciamo, una linea dal punto di vista della condotta, da quello che è tra virgolette, insomma, senza usare poi delle sovrastrutture troppo, come posso dire, troppo astratte, il potere, no? Cioè, nel senso, ci sta. Il problema è quando poi tu vedi che a questa narrazione si accoda tutto il resto, cioè non c'è più un giornalismo di critica, nessuno fa un'osservazione, dice ma scusate, ma i curdi, cioè, ma voi ricordate che i curdi poi alla fine sono stati importanti non soltanto perché abbiamo capito che era un popolo perseguitato dagli iracheni, non soltanto perché abbiamo capito che era un popolo perseguitato dai turchi, che sono stati comunque artefici di un genocidio anche nei confronti degli armeni, e noi facciamo, cioè, ce lo dimentichiamo questa cosa degli armeni, noi la tiriamo fuori quando la Turchia per qualche motivo ci fa rodere il culo, cioè nel senso sta lì, fa qualcosa che a noi non piace, tipo il finto colpo di stato contro Erdogan, e quello era un finto colpo di stato ovviamente, che è servito a Erdogan per accentrare di più i poteri, e allora a quel punto no, che brutta la Turchia, che è così, così poco democratica, questo nazionalismo turco, ah però perseguitano i curdi, ah però hanno sterminato gli armeni, ah ma che schifo. E ci dimentichiamo anche che che i curdi sono stati importanti pure per quanto riguarda il discorso della guerra all'ISIS, no? Perché hanno comunque contribuito, hanno versato del sangue, quindi non è che lottano soltanto per la loro autonomia, non è che loro hanno praticamente delle organizzazioni paramilitari solo perché gli va così, si sono svegliati una mattina praticamente a un certo punto hanno detto ma sai che c'è, che quasi quasi dice noi adesso siamo un'organizzazione terroristica e ce la prendiamo con tutti. No, loro hanno comunque dato il loro contributo da questo punto di vista, no? Però ecco, queste sono cose che noi tendiamo a ricordare, poveri i curdi durante la guerra del Golfo, poveri i curdi durante alcune azioni della Turchia che non ci sono piaciuti, poveri i curdi perché pure i siriani se la prendono con loro, poveri i curdi perché pure gli iraniani se la prendono con loro, e alla fine sti curdi stanno lì, prendono i schiaffi da tutti, ciò nonostante si difendono, danno il loro contributo nel, diciamo, nel mantenere un equilibrio anche dal punto di vista geopolitico per quanto riguarda il discorso del Medio Oriente. Però oggi i curdi sono un'organizzazione terroristica perché la Turchia ha deciso questo, e siccome che la Turchia era un elemento indispensabile per far entrare Finlandia e Svezia all'interno del meccanismo della NATO, allora sono state fatte delle concessioni che sono proprio le concessioni che in qualche maniera non solo ci hanno fatto perdere la nostra verginità qualora ce l'avessimo mai avuta, ma abbiamo proprio voltato le spalle a tutti quei principi sul rispetto dei diritti umani, su tutto quello che vi pare, che in qualche maniera comunque alla fine erano alla base di quella che era l'organizzazione di un nuovo soggetto politico, ossia l'Europa Unita, no? Quell'Europa che ha sempre tentennato nel arrivare a concretizzare un'alleanza politica reale, rimanendo un'alleanza socio-politico-economica sicuramente, ma senza istituzionalizzare realmente comunque una sua configurazione come confederazione, no? E costruendo una vera costituzione, e quindi tutto quello che è l'Europa è una serie di trattati dal punto di vista economico e dal punto di vista dei principi, quindi tra i quali ovviamente i diritti umani, tra i quali i diritti umani ovviamente sono anche i diritti umani di tutte quelle popolazioni che sono extraeuropee, perché noi sosteniamo di difendere praticamente i diritti nei confronti, cioè i diritti alla sopravvivenza di tutte quante quelle minoranze che vengono minacciate da nazionalismo, da qualsiasi cosa, perché non è che sono stati soltanto gli ebrei a essere perseguitati, ok? E quindi torniamo al discorso dei curdi, i curdi che noi abbiamo sostenuto, compatito, raccontato con tenerezza durante questi ultimi 30 anni della nostra vita, noi oggi li abbiamo venduti, abbiamo venduto la popolazione curda, le loro organizzazioni paramilitari, i loro stessi diritti. Li abbiamo venduti per far entrare Finlandia e Svezia all'interno della NATO, ingresso che era assolutamente non necessario, perché comunque qualora in caso d'aggressione da parte di una forza straniera, l'alleanza e l'Europa sarebbero comunque intervenute, ovviamente. Quindi per fare un ennesimo atto di prepotenza politica e di provocazione nei confronti della Russia, in una situazione dove chiaramente è tutto così bollente, tutto così un po' particolare, tutto un po' sull'orlo del limite del continuo contrasto a livello globale, noi che facciamo? Noi vendiamo una popolazione per fare una provocazione alla Russia. E quindi noi oggi ci dobbiamo svegliare con questa, non neanche dubbio di coscienza, ma questa vergogna, perché questa è una vergogna, cioè questa è l'operazione in cui l'Europa per la prima volta in maniera concreta si è dimostrata indegna di tutto quello che avrebbe voluto rappresentare, appecoronandosi in maniera definitiva agli Stati Uniti, che nel momento in cui l'Europa stava cercando di costruire una sua autonomia tecnologica, una sua autonomia politica, una sua autonomia filosofica, ritornano prepotenti imponendoti il fatto di far entrare due nazioni che sono già nell'UE all'interno di un'alleanza che era morta. Perché la NATO era morta. Ci hanno pensato i russi a ritirarla su, la NATO. E per la NATO è stata un'occasione incredibile. Perché chiaramente si sono trovati davanti all'opportunità di far resuscitare un qualcosa che era morto, fondamentalmente. Non so cosa ne pensate, ditemelo in chat. www.runtimeradio.it. Questa l'abbiamo rubata direttamente dal database di Leo Vargion, Leo Tomassetti, che ovviamente ci regala i Temperance con In the Age of Space, questo metal un po' sinfonico, un po' pomposo, insomma, che a me piace tanto perché sono vecchio e quindi ovviamente preferisco ovviamente questo tipo di metal rispetto al metal moderno, ma in realtà non faccio distinzioni, non è vero, però comunque mi ricordo che mi piaceva questo e questo continuo a sentire. Detto questo, ricapitoliamo insomma quello che è successo che praticamente, perché Svezia e Finlandia non riuscivano ad entrare nella NATO? Non riuscivano ad entrare nella NATO semplicemente perché ovviamente c'era un veto che era quello della Turchia. E come è stato sbloccato questo veto della Turchia nei confronti, perché è sempre la Turchia, ragazzi, è il problema dell'Occidente oggi e il problema dell'Unione Europea oggi più di tanti altri è proprio la Turchia, quindi con la sua politica, con il suo atteggiamento, con il suo approccio nei confronti delle cose, che essendo una forza strategica indispensabile per ragioni anche geografiche, a noi alla Turchia gli concediamo tutto. Quindi qual è l'accordo che c'è stato tra Finlandia, Svezia e Turchia? Che Finlandia e Svezia dovevano riconoscere i curdi come terroristi, determinate organizzazioni curde come terroriste, e agevolare in maniera istantanea l'estradizione di qualsiasi soggetto curdo all'interno dei loro territori, e soprattutto smettere di sostenere determinate popolazioni e cancellare l'embargo di armi nei confronti della Turchia. cioè praticamente sono andati là, si sono levati le mutande, si sono messi la vasellina da soli, perché cioè neanche dice sa che fa lei per cortesia, no, hanno fatto tutto da soli. E chiaramente tutto questo è rientrato in un bailam di polemiche infinite, no? Non solo la preoccupazione da parte dei curdi che si sentono tipo leggermente venduti per interessi geopolitici, no? Noi sa, siamo qui, abbiamo dei dubbi su questa questione, insomma, e va bene, ma anche da parte della comunità internazionale, che giustamente hanno blastimato, non tanto verso la Turchia, che insomma oramai c'è poco da blastimare la Turchia, no? Ma verso la Finlandia e la Svezia. Le quali ovviamente subito si sono difese, perché se tu vai a chiedere a Mario Draghi, gli sono state fatte due volte la domanda, cioè, scusi ma i curdi, la prima volta ha detto chiedetelo a Finlandia e Svezia, cioè tipo a me che cazzo me ne frega, sono problemi loro, sono stati loro infami balordi e quindi prendetevela con loro. E la seconda volta che è stato domandato si è girato e se è andato direttamente, e questo ti dimostra proprio a che livello di concezione di democrazia siamo arrivati, no? Oggi non c'è più, ragazzi, quello che noi ci aspettavamo che fosse la democrazia, la partecipazione parlamentare, la discussione all'interno delle nazioni prima di prendere una decisione, non c'è più niente, ragazzi, siamo di fronte a una velatura di democrazia, un qualcosa che finge di essere qualcosa, però ovviamente funziona su dei meccanismi di comando che non sono quelli propri, quelli che in realtà dovrebbero essere, ok? E quindi la domanda è stata fatta a Finlandia e Svezia, le quali giustamente hanno detto oh, a noi non ci potete d'incazzo perché noi siamo stati dei paesi fondamentali dal punto di vista filosofico e legislativo riguardo la questione dei diritti umani. Se venite nei paesi scandinavi, qua i gay hanno pari diritti, LGBT, le minoranze etniche, la religione, ognuno, tutti quanti gagliardi e tosti, ed è vero, non è che non sia vero, no? Quindi figuratevi se noi modifichiamo la nostra legislazione, la nostra cultura in favore di un accordo contro i curdi, no? Non sarebbe assolutamente mai. E allora ci dovete spiegare in questo accordo con la Turchia che cazzo ci sta scritto, perché la Turchia ha levato il veto nei confronti di Svezia e Finlandia, e non mi venite a dire che l'ha fatto per un atto di gusto, di fratellanza, perché ah che bello, nuovi amici nella NATO, perché insomma voglio dire non si stiamo a prendere per culo, no, da questo punto di vista. E quindi giustamente loro si difendono da questo punto di vista e cercano di rassicurare la comunità internazionale dicendo no, andate tranquilli, tra l'altro non c'è nessuna richiesta di espatrio o di estradizione, anzi da parte di, non c'è nessuna richiesta pendente di estradizione di qualche curdo che sta in Svezia, in Finlandia, nei confronti della Turchia, quindi state tranquilli, cioè nel senso non è questo il problema, diciamo è un accordo di principio su determinate cose dove è giusto che vengano riconosciute, che certe organizzazioni paramilitari vengano considerate terroristiche, ma come? Quelle organizzazioni paramilitari vanno aiutate a combattere l'ISIS, erano i tuoi alleati fino a 4 giorni prima. Ah, è vero, scusa, la stessa cosa era con Saddam Hussein, che era l'alleato degli Stati Uniti, addestrato dalle forze armate degli Stati Uniti e dalla CIA, e poi improvvisamente era diventato nemico, perché tutto riguarda solo la questione dei soldi, ragazzi. Quando ci sono degli interessi strategici, politici e economici, non ci so fratelli, non ci so sorelle, ed è una cosa vergognosa, però fino a che lo fanno gli americani, che noi lo sappiamo che hanno sempre ragionato così, sta cosa sì, te tocca, fanno incazzare, ah, imperialisti americani, andatevene a fanculo. Ma quando siamo noi, quando noi come cittadini europei, io mi sono sempre considerato un cittadino europeo, io l'ho sostenuta l'Europa, l'ho difesa, avrei voluto contribuire a costruirla questa Europa, e quindi oggi nei confronti di un'Unione Europea che compie un atto di tradimento verso una popolazione che doveva essere una popolazione protetta, io mi vergogno, perché sono stato chiamato in causa. Cioè se tu, qualcuno mi viene a dire ah, europei avete tradito i curdi, ci hanno ragione, e quindi oggi mi trovo di fronte alla difficile posizione di dovermi vergognare per una cosa della quale non ho responsabilità, però della quale non posso essere esentato, no? Cioè non posso dire vabbè, ma a me alla fine che cazzo me ne frega, io non c'entro niente, perché non si può fare, no? E come ci dice la canzone, signori, dal 30 giugno 2022 siamo degli zombie. L'Europa è morta, è morto il nostro sogno, è morta quella speranza di costruire un'entità forte, coesa, indipendente, che si basava su principi e filosofie più evolute, che portasse l'uomo al centro del proprio progetto, che riuscisse ad aggregare i popoli proprio grazie alla forza delle proprie diversità, perché l'Europa è un connubio di popoli diversi, con lingue diverse, con culture diverse, che però condividono una storia comune. Questa speranza, questo modo di voler guardare il mondo in maniera diversa, costruendo un terzo polo, un riequilibrio delle forze geopolitiche che per 50 anni abbiamo perseguito e che noi stessi all'interno abbiamo boicottato, anche grazie ovviamente alle forze che facevano gioco dall'esterno, Russia e Stati Uniti, che hanno cercato di smontare in tutti i modi questo sogno, ecco. Questo sogno è morto, quindi l'Europa da questo punto di vista farà veramente fatica a rialzarsi da questa ombra, da quest'onta, che chiaramente ci farà guardare a noi stessi e farà guardare agli altri verso di noi in maniera diversa. Quindi non c'è più quel presupposto filosofico, tutte quelle belle carte, tutte le convinzioni sui diritti umani, tutta quella voglia di costruire un'entità geopolitica coesa, forte, basata su un'unità militare, su un'unità politica e su una unità strutturale, sulla voglia di costruire una costituzione comune che riuscisse a rispettare le sovranità nazionali e allo stesso tempo fosse da guida verso un indirizzo più globale, più unitario. Questo progetto che avrebbe potuto svilupparsi e che ci ha fatto sentire cittadini europei, ci aveva fatto scavalcare questa cosa del nazionalismo, del nostro orticello, del provincialismo, della nostra visione così limitata del mondo, ci aveva portato una nuova dimensione sperando di poter essere qualcosa di più. Ecco, quel qualcosa di più oggi, anzi due giorni fa, è morto da questo punto di vista e resusciterà forse un giorno. Perché non lo considero come una sconfitta definitiva, ma come una profonda battuta d'arresto, importante battuta d'arresto, che cerca di nascondersi in qualche maniera, come mettiamo ovviamente la polvere sotto il tappeto, cerca di dire: vabbè ragazzi, purtroppo questa cosa è importante, c'è la guerra. Una guerra che abbiamo causato noi, una guerra che ovviamente in questo momento continuerà a perseverare, perché chiaramente continuiamo ad armare le parti in causa, quindi c'è tutto un discorso dietro da fare, no? Non c'è la neutralità o la voglia di essere politicamente attivi nei confronti della pace. Qui è soltanto un atto di forza verso qualcuno che fa un atto di forza. E questa filosofia così americana, così antica, in realtà non porta proprio da nessuna parte. Perché il cazzodurismo, quel tipo di propaganda concettuale che abbiamo avuto per secoli, perché la Francia doveva dimostrare essere meglio l'Inghilterra doveva dimostrare essere meglio la Germania e via dicendo, questi sono concetti che dovrebbero essere superati, perché le nostre nuove generazioni ce lo chiedono, perché oggi i problemi da affrontare sono diversi, sono nuovi, ci sono nuove sfide da affrontare. E invece no, torniamo sempre sul cazzo di vecchio meccanismo del dover fare fronte contro fronte, pisello contro pisello, per far vedere chi ce l'ha più grosso, perché questo è il principio, ragazzi, questo è il discorso. Quindi grazie a Svezia, grazie a Finlandia, paesi che ho sempre considerato paesi evoluti come tutto il blocco scandinavo, e che oggi hanno venduto anche loro parte della loro anima in favore di una protezione che non gli serviva, fondamentalmente non gli serviva, perché comunque i vicini, gli alleati sarebbero intervenuti in ogni caso. Ma tu non puoi essere neutrale nei confronti di tutti e poi la prima volta che ti caghi sotto ti vendi le mutande, ragazzi, non è concepibile una cosa del genere, mi dispiace, proprio non ce la faccio, è una cosa, per me è una ferita profonda, una ferita grave, proprio personale, non è soltanto una cosa collettiva, non è soltanto nei confronti dell'Europa. C'è qualcosa oggi in Europa che brucia, che già bruciava, che c'era, era lì, era latente, incominciavano i primi focolari, e oggi noi abbiamo dato voce a questo dissenso, a questo fuoco, a questo ritorno alle xenofobie, a questo ritorno alla separazione, a questo ritorno ai nazionalismi, a questo ritorno alle autonomie, quelle sbagliate, non quelle generali, insomma, no? Quindi, e niente ragazzi, vabbè, andiamo verso la chiusura, che vi racconto quello che succederà in questo grande finale di stagione di Runtime Radio. Snap, architettura imperfetta, è il podcast dedicato alle nuove tecnologie informatiche nel moderno processo di progettazione architettonica. Gli argomenti principali riguardano quindi il BIM, la realtà aumentata, la realtà virtuale, la progettazione parametrica ed algoritmica e tutto ciò che riguarda la coevoluzione della tecnologia e della professione di architetto che utilizza appunto questa tecnologia per la progettazione. Potete ascoltare una nuova puntata di questo podcast ogni venerdì su tutti gli aggregatori di podcast e tutti i giorni alle ore 13. Potete ascoltare anche gli episodi storici su runtimeradio.it. Se volete, ci sentiamo nella prossima puntata di Snap, architettura imperfetta, un podcast color grigio ciliegia. Capite che per fare un programma come Buongiorno un cazzo io consumo energie in maniera spropositata, sudo senza motivi e cerco insomma di sopravvivere all'interno di queste incazzature che cerco sempre di tenere equilibrate, perché nelle ultime settimane mi sono detto vabbè, ma vale la pena continuare un programma come Buongiorno un cazzo? Forse non sono più abbastanza arrabbiato come lo ero un tempo. Poi ho scritto questo episodio, mi sono messo a fare la scaletta e mi sono sentito incazzato, mi sono sentito ferito, mortificato, anche tradito, perché poi alla fine, cioè, per me questo era un progetto importante, no? Quello dell'Europa, progetto importante del quale oggi invece ci dobbiamo vergognare, così come ci dobbiamo vergognare di un altro tema che parleremo in un'altra occasione, perché qui mentre che i disperati del mondo cercano di sopravvivere in qualche maniera, noi li facciamo morire, ragazzi, gente morta, bambini morti, perché ce ne freghiamo noi alla fine, no? Però i bambini ucraini sono molto più importanti di centinaia di migliaia di persone che cercano di sopravvivere in qualche maniera. Sono tutti importanti, non esiste uno più importante di quell'altro e non deve esistere, non può esistere una cosa del genere. Quindi detto questo, ragazzi, Io considero conclusa questa stagione di Runtime by Night. Sì, dai, a posto. Di Buongiorno un cazzo, perché è giusto così. Nelle prossime due settimane ci inventeremo qualcosa, il giovedì alle 7 di mattina magari faremo qualcosa in duetto con qualcuno, qualcosa di un po' più divertente o anche di più riflessivo, non lo so, però ho bisogno di staccare da questa cosa. In più, come sapete, abbiamo detto anche ieri sera Runtime by Night, questa volta è giusto il titolo, gli ascolti chiaramente Runtime in generale, quando vengono i mesi estivi calano in maniera ponderale, proprio, cioè nel senso una cosa proprio brutta forte, insomma, ma è normale che sia così. E quindi noi andiamo a chiudere praticamente tutte quante le stagioni delle nostre trasmissioni e cerchiamo di chiuderle, diciamo, col botto, no? Cerchiamo di fare delle cose carine. Per esempio, mercoledì, ma ancora da confermare un po' la data, faremo una puntata su Ron Gilbert, su tutto quello che sta succedendo, sull'odio social, sul fatto che comunque oggi i fan devono avere voce in capitolo su qualsiasi cosa, anche nei confronti di un lavoro autoriale, per quanto questo lavoro autoriale ci faccia schifo fondamentalmente, però voglio dire, cioè, nel senso, c'è anche il rispetto e la dignità per un autore che fa qualche cosa. Poi se è sbagliata o no, se non piace o non piace, lo deciderà poi ovviamente il mercato. Però insomma, l'odio social e scrivere che se Monkey Island sarà un'opera di sinistra o un'opera gender non lo compreranno, ragazzi. Questo è un problema serio degli Stati Uniti, eh. Oggi c'è questo rigurgito sociale, questo scontro sociale importante che c'è negli Stati Uniti, bisogna tenere d'occhio, perché c'è un conservatorismo reazionario e come posso dire, creazionista, che si confronta nei confronti, cioè che si scontra anzi nei confronti praticamente di una parte della popolazione che inizia a vedere un certo tipo di sinistra come l'unico modello per poter sopravvivere in un sistema che è profondamente in crisi come quello capitalistico americano. E quindi c'è, sarà interessante la puntata su Ron Gilbert. Se riusciamo, dovrebbe essere mercoledì alle 21.30. Forse c'è anche Deb, che tra l'altro è stata gentilissima ad aver ascoltato la puntata. E poi il 13 luglio ci sarà il finale di stagione di Archeologia Informatica, su una puntata completamente dedicata a Tron, quindi dal punto di vista cinematografico, informatico e relativo ai videogiochi. Sarà una bella puntata live, anche questa su runtimeradio.it e su Twitch. E il giorno dopo, il 14 luglio, ci sarà l'ultima puntata di stagione di Quando Eravamo Futuro, dove io, Davide e Carlo racconteremo le tre cose tra virgolette, cioè nel senso, quindi non necessariamente cose fisiche, diciamo così, ma possono essere anche cose astratte, quindi le tre cose degli anni 70 e 80 che ci mancano di più. E speriamo in una grossa partecipazione, perché ci piacerebbe sapere anche quelle vostre cose che vi mancano di più degli anni 70 e 80, e se volete per estensione anche della vostra infanzia, che può essere anche gli anni 90, giustamente, per non creare proprio, diciamo, un paletto così rigido che poi chiaramente mette in difficoltà magari altre persone che vorrebbero magari contribuire e dire la loro, però non possono perché giustamente negli anni 70-80 non c'erano. E questi saranno per ora le tre puntate organizzate, già pronte, che insomma vi presenteremo con maggiore chiarezza e con maggiore ufficialità nei prossimi giorni. E poi ci saranno anche altri finali di stagione, altri programmi, altre situazioni, Leo, le orazioni della sera che sono finite, quindi si trasformerà in qualcos'altro, OGM che ha chiuso anche lei ovviamente la sua stagione, quindi anche qui trasformeremo delle cose in maniera diversa, cercheremo di accompagnare luglio in maniera più leggera, senza nessuna pretesa, sapendo che appunto, insomma, siete sicuramente tutti al mare a mostrare chi a pegliare. E poi ovviamente stiamo già preparando una grandissima nuova stagione da settembre, ragazzi, dove aumenteranno le trasmissioni live, aumenterà il team, cercheremo di far crescere la nostra radio e soprattutto cercheremo anche di capire se potrà essere localizzata in qualche situazione, ma in particolare lanceremo la campagna per l'istituzionalizzazione di Runtime Radio, che diventerà un'associazione culturale, perché negli anni avremmo dovuto, non l'abbiamo ancora fatto, ma ecco, insomma, è giunto il momento di dare a Runtime Radio la sua dignità e la sua identità. Grazie a tutti, buona mattinata, buon weekend, e mi raccomando, anche se è un buongiorno un cazzo, fate che sia un buongiorno un cazzo fatto come si deve.